Antonio, auguri, buon anno. Oh, grazie. Ma il segnale ha aumentato, Prova un po'. Oh, tre ciocca. No, allora, qui col 3009, sì, Santiago 8 portante muta, quando moduli 6, 8 pieno. Però nemmeno 8 e mezzo, capito? 8 e 8 abbondante modulato. E come gli altri giorni? Devo tirarci una stella. Già diciamo che sto io un po'. Eia. Io mi sto dedicando un po' a fare roba in casa, lavatrice, eccetera, dai. Qua è il monitor a vedere se entrava qualcuno. Ciao ancora di nuovo, un saluto, poi più tardi vedo se riesco a entrare. Ciao. Passa il tempo, non so che ti dica, passa il tempo, si invecchia, è boh. Lato 23 canale, ecco perché questo splitter non è generoso, ecco, grande, è forte, 5 amplificata. Ma io ti scendo anche meno, di giù. Non lo so, comunque adesso piano piano, dai, poi devo mancare un pezzo di tubo, ma era più grosso, qui ho tirato in cartella. Vedete, il risultato sarà migliore. Beh. Più grosso, un pollice e un quarto, un pollice e mezzo. Non lo so come. Quindi non ha fatto bene. Perché ho dovuto mettere un pezzo di cotta per essere un po' più. Ne accetto un pezzettino appena più grosso, gliel'ho piatto con due zappe, quindi è tirato sopra, vedrai che risulterà ancora più meglio. Molto meglio. Basta sapere il diametro, lo misuri col metro, mi dice la misura e dico quanto è quel tubo. Breco, breco. Avanti. Buonasera a tutti, ciao Tonino, ciao Bombolo, c'è una persona che vi vuol salutare dopo tanto. Paolè, vai. Ciao Tonì. Ma dimmi come ti hai fatto. Sì, stavamo parlando così, mi ha fatto gli auguri Paoletto, Tonino, Bombolo, sicuramente tante altre persone. Vabbè, fai un saluto dai Paolo, così chiudo il baracchino. Saluto a tutti in generale. Ciao a tutti. No, saluta anche a Bombolo, dai. Saluti, saluto Paoletto. Dai, vai adesso, saluta adesso. Ciao Bombolo. Ok, va bene, a dopo, ciao. Vicino a Edo. Sì, e lui la modulazione però, ripeto, non è lui. Ragazzi, saluto a tutti, però non ha detto i nomi. ma così non si fa di riuscire. Guarda il baracchino, torna. Comunque, ciao e auguro neanche a te. E ecco, su quelli che l'ho. Un attimo che vado a girarmi su voglio. Io sto facendo un bel ragù, sto facendo. Eccomi. Eccomi qua. Ci vuole un po' di tempo pure fare il ragù, cavolo. Tutto preparato. E andare, perché Monica mi ha detto, porto gnocchi di patate, trai un mattone, no, te pesantemi. Dai, mi piace fare quelli, le ho prese apposta per fare a casa tua, vabbè. Allora faccio un bel ragù, ho detto, e così ha fatto. Andà via, tu. Ma pure io non andrà piano piano, perché se tu vuoi andare troppo veloce, esci una schifetta. Ah, io mangiavo un po' di olio d'oliva, ho messo la cipolla, ho fatto una bella, diciamo, non arrosolare, ho fatto tutto quelle cose che c'aveva. Quando poi stava per iniziare a rosolare, che l'hai macinata, l'hai girata, rigirata, quando era tutta quanta bella, quasi, non dico cotta, perché non ha cambiato colore, allora l'hai messo il sugo. Con il sugo poi ci ho messo un po' di sale grosso, fatto girare, dopo quasi alla fine, poi c'è finita la cottura, ci metto 3-4 foglie di alloro e il rosughetto è pronto. Sì, pure io non posso così un po', oggi però l'ho fatto con la mancetta, con l'aria più vicino. Siamo la mancetta, non la bevo e ho fatto un guiso. Gli ha da me matessi, non è buono. La mattina avevi su di frequenza. C'è Giulio, ci sei l'ascolto? Mi ha chiamato a farmi gli auguri oggi. C'è pomeriggio. Io ho acceso prima in frequenza, c'è nessuno, dice anch'io. Qualche uno entrerà se ne aggassi, no? Ma sono ancora stanchi di quello che ho mangiato ieri, ero fatto la notte brava fino a tardi stamattina. Ma la gente che sa, sento che hanno fatto in casa. Comunque si è notato, Olbia, Alghero ha fatto le strike, Olbia, Alghero e poi cosa c'era, Olbia, Alghero e Cagliari, hanno fatto una grandissima festa con i cantanti di fuori eccetera eccetera, Sassari zero, ma io non ci ho preso, l'assessore che si occupa dello sport e spettacolo, sta a scaldare la sedia, a giocare a carte, si prende lo stipendio e per i cittadini di Sassari non fa tenuta, o per la propria città in cui vive lui, niente, zero. Deve spendere 50-60 mila euro per fare queste cose qua, cioè è inutile stare a non fare niente, cioè, ma che senso ha? No, io vedo gli altri paesi più piccoli, buoni di là, fanno festa e chi c'ha introito sono tutti i negozi, i bar eccetera che incassano perché c'è tanta di quella gente e invece Sassari di morire di fame e queste cose non le fanno e non è che fanno pagare i biglietti perché lo fanno in piazza queste feste qua . Quindi è una cosa che fa l'assessorato allo sport, allo spettacolo, perché sono persone che gli piace che è la città e i politici che hanno votato sia sempre, diciamo, come si deve, la colgono bene, sia turistiche che tutte le persone che vanno, anche Cazzesardo c'è il suo comunque, beh, sono persone che fanno qualcosa, io non mi sa se migliaia di nostri figli non fa tenuta, eppure si dà con un commento, a parte quello su Facebook, anche sull'assessorato, l'assessore ha detto alle strade che non fa tenuta, se prendiamo via Cristoforo Colombo che è la Tenoce, lo conosco più di 50 anni, non hanno mai saltato, è tutto molto mare, ma che domani io voglio da passare con una macchina, con una moto, le devo farci macchie, assessore, è così, Anto, purtroppo è così, si miglia di là non farsi nulla. Anche sono due gersalto, la mano, la colpa mi dice di che non arrabbiate, ma la proprio denunziate, la giunta di una moto. Ebbene, lo potete denunciare, scusa. Sì, o che tutto il messo in mano alla piedia, tutto. Io denunciato, io sto male, cioè sono molto male, ho cioè, proprio in salute, ma colpa di questi disgraziati. Fatto bene, cazzo è mamma fuori di sé. Ma fatte in mare cazzo di carretica, e poi asfaltano le strade che sono già messe bene, quelle che sono poche mare in manco le fazzoli. Hanno rifatto l'altra volta Via l'Italia che era perfetta, no? Invece rifare le strade di altri posti che sono a mucche e fanno schifo. E quello che succede lì dove c'è la Conata, quella via, non l'hanno mai fatta, con 50 anni, è sempre molto male. Qualche traccia hanno fatto, mettere la fibra con il marasù che la accompagna, ritappano quel pochettino e basta. E la strada rimane sempre molto male. Fanno schifo qua. Me l'hanno detto che c'è caduto il motto, per cui l'asfalto fatto alla caccia di cane. Ma dico, se non asfalto c'è il gradino, c'è quello che l'altro, mette dei segnali, non far passare, chiudi la strada, fai fare il giro, ma non lasciare in pericolo persone che si fanno male e cadono, ma siamo a Buffonente. E se è una vecchietta che inciampa, mette il piede sotto, sbatte la testa e muore, cioè non è, queste cose non le capiscono queste persone. Io non ero d'accordo con questo sindaco, perché in precedentemente negli anni passati abbiamo visto. E non ha fatto nulla, conosciamo già Capus, quindi io ti giuro non ho votato né a lui e neanche a quello precedente che c'era, questo qua. Sanna, come il Marasu si chiamava, boh, non me ne ha detto più, penso a poco quanto mi interessa. Ti abbiamo sparato poco, tanto la giustizia mi ha detto su Facebook, questo sindaco. Ma c'è la Biglialucci. Ha detto, ah, sei un devoto cattolico, a me, ma che nulla ti manca a te, perché io obbligherei a lasciare i crocifissi nelle scuole e se qualcuno obietta di che non li vuole, l'avrei mandato a Eto pura, ma giù preso. E lui mi ha scritto, sì, è proprio un quello cattolico, e da lì poi siamo pizzicati piano, poi la giornata di Raffanculo e l'ha già bloccato, vai non amara. Nicola Sanna, ecco qua. E beh, a te non c'è più. No, la sedia, perché mi faceva male il tenere nel braccio, come si dice. Adesso mi sono messo qua. E che braccio c'ha, destro o sinistro? Tutte e due. Da uno me ne resta la spalla, dall'altro sono stato operato. E adesso poco lo conta, va. Per carità. Ma a me colui che passa col rosso, io con lo scooterone, la abbiate in pieno, passa col rosso, e c'è un po' quello conto, sono stato 5 mesi io fermo, 5 mesi. Pensa, frattura baleo al piede, adesso un po' meglio, ho fatto fisioterapia tutto quanto. Poi, distacco del trapezio nella mano destra, frattura delle costole scomposte che mi ha bucato mezzo polmone, fatto un conto. E sì, quando non mi sono messo a posto non mi hanno rilasciato l'ospedale. E poi niente, c'è il braccio sinistro che più di un tanto lo posso levare. Ma com'è l'orecchio che funziona? Beh, la massa gli rifare veramente. Esce un po' con l'ugotto, aspetta. Secondo me sparano, dico, forse l'hai capito, quei soldi tu le dai e compri noccioline a tuo figlio. A me mi tocca un me o un me di più. Io so già cosa mi tocca più o meno. Quindi, a chiedere la circolazione c'è che mi tira di manco, non ho preso. Sono manica di carogna, sono. Ma non è che è carogna, ma uno ha. Chi ha tenuto un buon orologio, così è. Sì, in me attacca. Ma è successo pure a me, è successo. Vabbè. Una volta, ma non male che l'ho visto. Lì in corso Margherita di Zappoglia, io stavo uscendo da Via delle Conche, stavo uscendo. Ah, ma che l'ho visto, mi sta piatto che è passato un orologio. Ah, io ero via Giovanni Pascoli, questa via Petromica scendendo e passo al Corrosso, ma uno mi ha detto che era col telefonino, penso un po', capito? Io non ho fatto in tempo neanche a frenare perché tiri giù e stavo andando a 30-40, non di più, e niente, non ci ho trovato la radio in colpo. Ho sentito il motto e poi sono volato per terra, quindi. Ma c'è la biglia a luce, lì fra che mezzo godina tu per carità, ogni volta che io o faccio male o il movimento col braccio e vedo le stelle, cazzo, lì fra che vedo quel ciumacco e passo con ruglio, una mazza di varia, anche un signore sul sedia Edo, che caccia a piedi si fa sento male. Ma adesso andiamo anche in tribunale perché ti ripeto cosa è successo. Allora, quando ho avuto l'urgenza e lui è sceso subito dalla macchina, colpa mia, ho preso il col rosso, il sole negli occhi, non vedevo niente, ho testimoni. Dopo 9 giorni ho detto scusa, mi ha mandato il foglio e non si legge bene, ma cosa è dichiarato almeno l'assicurazione? E mi manda il messaggio su WhatsApp, sono passato col rosso, la colpa è mia, mi prendo tutte le responsabilità. E poi cosa aveva scritto? Il sole negli occhi, quello eccetera eccetera. Io giustamente ho messo all'inizio già l'avvocato e quel foglio l'ho fatto in cartaccia con la stampante e tutto quanto, e quindi l'ho dato all'avvocato. Dopo diciamo circa quasi un mese sono andati i vigili da me e poi anche da lui a dichiarare le dinamiche dell'incidente. Lui ha dichiarato e niente, cioè, sono a Fornosso, mi sono fermato e spero che scattava il verde, come scattava il verde sono partito e poi con lo specchio dopo l'incrocio con il retrovisore ho notato questo tipo in moto, stava sbandando, è caduto, mi sono fermato a soccorrerlo. Luci di inizio, la mazza gli è varia, a parte i testimoni, che i testimoni adesso manco le calcolo più, ma c'è quel foglio che lui ha dichiarato sul messaggio che la colpa è sua. L'avvocato mi ha detto non ti preoccupare, se l'assicurazione lui ha dichiarato la stessa cosa e non ci vuole pagare andiamo in tribunale, gli costa molto di più e poi passa via legale per falsa testimonianza. Allora domanda pure 100.000 euro, non me ne affutti in un tanto. Sì, ma io ne ho parlato molte persone, anche autocasse che conosco anche tu. E quando l'ho fatto vedere quel messaggio ho detto, ma anche il dottore quando sono stato là lì a fare fisioterapia, come è successo questo? Perché come è successo? L'ho spiegato, l'ho fatto vedere, c'è sempre quelli fuori dei messaggi, l'ho fatto 4-5 fotocopie, l'ho fatto vedere, ma ho detto, ma questo è scemo, cazzo per non fare il CD normale? Adesso passa qua, questo va anche in galera, ma ha detto, ma dice è tutto manco, ma grande, ha detto sì, avrà 46-47 anni, allora è tutto scemo, non ha capito niente nella vita. Io per lui, la testimonianza finché la pigliamo aria. Ci avrebbero già dovuto modificare il registro della patente, già data come cioè, tutte la che di una parte magari ha fatto male a un altro. Già gli avrebbero dovuto modificare subito la situazione. Sì, ma infatti vigile, quando lui ha dichiarato questo, non sapeva più da chi dare la colpa, perché io c'ho il verbale, c'è scritto che non sa dare la colpa né a me né a lui, perché tutti quanti dichiariamo che abbiamo ragione qui in entrambi. Quando poi sapranno com'è la verità, automaticamente, allora ritorno 8 punti di patente perché passo con rosso, più c'è la multa, più revisione di patente. Lui ha fatto tutto questo per non prendere la multa, gli 8 punti e la revisione di patente. Ma tanto poi, hai una dichiarazione scritta, poi... non me la fotte nulla. Tu pensa che mi sono anche sognato che ero in tribunale con il ciumacco e il giudice l'ha interrogato, dica la verità, tutta la verità, dica lo giuro, e il giudice già aveva il foglio della fotocopia del messaggio che mi ha dato che la colpa è sua, e lui ha dichiarato quello che ha dichiarato, e il giudice ha detto arrestate il signore per farsi la testimonianza. Chica, e poi mi sono coscindato, chica non sogno mai sognato, gli ho detto l'avvocato, mi ha detto è più o meno così, per carità. A se vado a girare il sugo, a tu, 2 secondi. A posto, Anto. Aspetta anche il gas, a posto. Sì, si è lasciato anche 3 fogli dell'oro, ho fatto cuocere altri 10-15 secondi, poi ho spento il gas, ho messo il tappo, mi ha tutto lo zoro dell'oro. Vabbè. Di cosa? Allora. Ma anche io non che l'aggio, infatti ho chiesto a Vittorio che cazzo no, che figlio su di me, e me l'ha regato un rametto, me l'ha regato. Ma se voglio te le procuro, non c'è problema. Tu non sei più attaccato. Sempre lì sono, mi ero spostato un mesetto, poi dove sono andato a abitare non prendeva neanche il telefono, ma la chiedo manca a farvi dare una piazzarne. Era detto un villaggio, manco a parlare, ma la baracchino mi era più venuta intanto. Ma che non potevo telefonare, ho detto no, c'è segnale, e ci vuole il ripetitore, non le mettono qua, non le mettono, cosa vedi, no? Per le persone che ci sono qua dice non c'è tanto, quindi non le mettono, allora mi si piazzi. Sono ritornato dove abitavo prima. Da a Moria Mar. E là ero all'interno proprio nuda, non pigliava manco una tacca, dovevo uscire fuori praticamente se io entro mezz'ora lui mi tendi umani, dovevo telefonare un'ambulanza, e mutandi oppure dovevo vestirmi pressa, freddo no, faceva, dovevo uscire fuori a telefonare, ma buffone ad esempio, no, lascia perdere. Bello, insomma, bello così era, perché c'era anche il guardiano che era su 5 e rotto le balle bruisso. Allora io avevo una maletta di plastica tutto vecchio, l'ho fatto in 1000 pezzi, l'ho messo nel contenitore in plastica. Me ne è giunto che comacco domani, così non va bene, e cioè la plastica va nella plastica, scusa, o tu va così, su 5 così, da quante paesi, sì, è palisso, cazzo, ma cos'è ferro sta cosa, non è plastica. No, non va bene, vuole un altro contenitore, più non so come trasformare una cosa, fatti lo tutto, che se quest'altro si fa un cazzo a mangiare la sera, che non fa salute, lascia una parte della plastica, poi ci viene a mezzo. Poi mi ha chiamato pure la padrona in casa, cosa è successo, gli ho spiegato, ho detto, mando la fanculo, perché si attacca con tutti, ma come si attacca a mare? No, perché mi sono trasferito, perché dove abitavo praticamente, dove metto tuttora, c'era qualche lavoro da fare nella veranda che non hanno mai fatto. E praticamente, come è passato poi al fratello della mia padrona in casa, questo dove abito io adesso, non ci sono problemi, ti faccio la veranda dentro 2 o 3 mesi. A tu, in un anno è passato, io sono ancora uscito. Allora mi sono così che da casa mi danno gli occhi, o a Ciappa di Sassaro, o in periferia, ma è venuta. Mi sono rotto veramente. Quando piove qua c'è la veranda che cade di una colora d'uzzo, che il legno si fa seghendi, per ancora brutto, e a parte quello ci sono le eternite che io non posso cacciare con un capo sotto, assolutamente. E allora mi ha rompito le balle, e poi sono comunque in nero. Cazzo, mi facevo il contratto, non me l'hai mai fatto, mi ha rotto le balle, mo basta. E io perdo casino dei soldi. E dove? Boh, c'è queste chiede che non ha c'ha pronta, ma poi attaccate la subito. Non ho capito. Che attacca l'altro subito. No, me la danno che c'è una bella pensione tu, cavolo. C'è una garanzia, cioè. Va bene, una garanzia, ma loro la danno a chi, o chi è disoccupato, chi è povero, chi ha una pensione minima, penso, una fuori del genere, non lo so, così maledito. Tutti cazzate, ma danno a chi ha la garanzia. La garanzia tu ce l'hai, cazzate di dopo. Non lo so. O almeno mi costa nulla, domani andrà a letto popolare, così se posso fare qualcosa, poi vediamo cosa mi dici. Anche io mi sono rotto le scatole, io so che ce ne sono molte case popolari vuote, niente che mucchia eccetera, però a me qualcuno mi ha detto no, a te non te ne dai, tu sai bene, c'è una bella pensione, hai capito? Però se la buona pensione l'affitto subito, non hanno problemi perché c'è una garanzia, cioè loro non ne vogliono i poveracci, loro vogliono, anzi vogliono gente che la può che cade una buona pensione, se non cadono degli altri, mica c'è avuto problemi un bel io, qualche cosa, mi ha detto ma lì alla fuga c'è la addirittura che ti intromettono, vogliono anche la busta, vogliono avere la busta paga, e qualcuno va anche a piccarsi il culo dopo la furia, perché stai dicendo la verità. Addirittura a me mi ha detto tutto il contrario, tu dici mi si dice ne tu, però se così io ando, io sono anche da solo, quindi a me anche una gamba così nel bagno, se sono 2 gambe così nel bagno è meglio, perché qua già me attrezzatura è quasi non è me la bocco, e ho che ho visto dentro l'armadio, ho fatto un gozzo, mi sono fatto basamento in cemento, ho ordinato una casa. casetta, quelli in metallo verde, ben carine, con le porte scorrevoli, me la ci piazza la vacanza e ti aggiungo solo roba dretto, attrezzatura. E io purtroppo, a me a manco la casa due gambe così nel bagno, ma da re. Sì. Andiamo. Andiamo lì sopra. No, io lo so, guarda, lo posso dire con garanzia, perché pure noi, quando abbiamo cercato casa, se non avevi certe garanzie, non casa non mi pigliate. E vabbè, ma forse anche il fatto Antonio, che io sono anche solo mia, anche quello, se avrei avuto una vita una compagna forse è diverso, ho figlio da presso. Ah, vabbè, quantità. E comunque esatto, non mi costa nulla a farlo, ma intanto a me non mi sono coglioni di volare il gas, qui io che me voglio andare, quindi bisogna si cambiare la casa. Quindi, adesso vediamo. Domani penso che sono tutti aperti i negozi, domani è già due, quindi è normale, diciamo, non è più né festività né niente. No. Ma non è entrato nessuno ancora. Chissà che ha detto, ve l'ascolto però. Beh, se vuole entrare, ci fate piacere. Anche loro dicono quello che vogliono, poi noi continuiamo a parlare. Possiamo aggiungere qualcosa, eccetera. Il questione diventa più interessante. Beh, guarda, voglio amare, però è troppo lontano, e poi no. Voglio amare, come si chiama. Se la preferite più dall'altra parte. E armori amar. E diciamo che rimane, cosa rimane? 200-300 metri la Marina del Sosso. E poi niente, e fa quasi un altro chilometro per arrivare al villaggio, tutto dentro lo bosco, casino. Niente, poi è venuto anche Gianni, pensa un po', Gianni doppio lungo, e anche lui è accostato col telefonino, non prendeva niente, perché la padrona era amica di Gianni pure, per mezzo di lui che io ho trovato quella casa, bella, veramente la casa era stupenda, tutto quello che vuoi, una bella veranda, quello che vuoi, però se a me non piglia il telefono, mi si piace, se uno muscio che... Non so. Io non ce la trovo anche perché un condominio si può girare un po' di barba, ce la trovi verso lì, scendendo all'inizio di Blasamone, anch'io in quella zona, sarebbe meglio. Vabbè, un giro me lo farò, però ci tento anche su quello, la rete popolare, il condominio me ne ha fatto nulla, quando tu paghi con il tuo paghi. Io vedo, vedete mia sorella, la Bretellina, la prima sfida di case. Io ho visto che lì, grazie a Dio, hanno un condominio tranquillo, la casa, il palazzo è sempre bello in ordine, hanno messo l'assessore nuovo, sempre le piante, bello pulito, c'è uno che pulisce ogni settimana, cioè è una cosa come deve essere. Mentre qualche altro condominio, per carità, gli è casino, bucare il passato, non racconta, no. Dipende che ci sia un capo condominio in gamma e persone che pagano la loro rata mensile e mettere soldi a fondo perché quando c'è qualche guasto si aggiusta. Sì. Ho dell'aria, anche io l'ho capito adesso, dell'aria. Più o meno già ho capito dove abiti tu. E lì com'è? Qua... Ma un po' così, Comunque, lussi, è barato. E adesso non ci ho messo una stella, ho buttato una stella così, ma... Ovviamente, sbaglio, più. Ma come... Inquilini nel palazzo sono tranquilli o qualcuno casinista, beh? Ma come che sono tranquilli? Ma non c'è il capocondomino che cerca di pulire la scala, pitturare le mura se sono sporche, aggiustare qualche lapadina che è fulminata? C'è qualche capocondomino? No, qua no. Allora. Poi fai da sé. La zona 2 dove sei tu, se te lo vuoi biancheggiare, le biancheggi, se no rimane come te. Esatto. Allora, così c'è il condominio, sempre la bretellina, il terzo palazzo che va a seguire, dove abita la sorella, perché dopo il secondo palazzo ci abita Mario Mansell. Il terzo palazzo abitava la buon'anima di Antenna 1, e là era un casino, ma casino. Io mi ricordo la buona di Gavino, quando è andato al capocondominio, che abitava lo stesso palazzo, invece pigliare un eterno, e ha detto, mi sono finito la palina, a chi tu è? A me cosa vuoi mettere l'amore? No, io ti ho pagato tu di monete di nai, l'amore è tuo, ci sono pezzicati, meriati, di chi la cotucazione mi te la mette in fronte Gavino. Chi tu è? Lo capocondominio, ma carità, no, no, no, no. No, ma lì, lì, allora, la carezza, faccia della Iano, la Multari, l'ascensore non funziona, aiutiamo. Io sono andato all'abitazione, sono quotati perché ci serve il motore buono, dell'ascensore non funzionava più e c'era gente che è invalida, che abitava al quinto piano, e sicuramente che te posso alzare. Me sono quotati un tutto per uno, grazie a Dio, dato che tutti i coppoli ce la facevano, ho aiutato anche il comune e l'hanno messo nell'ascensore nuovo, cavolo che bello che è, è tutta una cosa. E beh, quando tutti vanno d'accordo, giustamente, ma tu non pare manco palazzo che sia ai chimici. Sopra entri dove è tutto pulito, lucido, profumato, le piante da una parte, le piante dall'altra, i muri non sono sporchi, sono bellissimi, pitturati, e già c'è anche persone, diciamo, civili, diciamo così. Io dove abita mia zia lì c'è tranquillo, abita dove la conosci, allora è tutto il mondo. Adesso che colore hanno? Prima erano arancioni, adesso possono perdere. Lo abitiamo, ma se no me non ho capito a tu. Termometro, conosci Lorenzo? L'ho già sentito, ma non sapevo dove abita, dove abitava. Via, nella casa del Verdi di una volta. E via? Mi chiedono i tetti lì, dove c'è quella scheda che fate. Ah, capito. Sì. No, poi quello lì, quello che c'è con l'antenna sul petto. E infatti si vede un'antenna, si vede. Sì, mezza antenna. Beh. Ma io vedo anche molte antenne che poi, boh. Per esempio, ne ho visto una notte su in via Sulcis, proprio dopo il semaforo, sopra la farmacia. E dica lei, boh. Ecco, la barriera. Ma non sta modulando? Ma che volte, questo è l'anno scorso intanto. E non mi attivo come ce l'ha? Non ho capito, non me lo ricordo adesso, non me l'attivo. Aiuto. Mi, e beh. Sa che non mi molava più, non mi molava più. Non riuscivo a sganciarmi. Vabbè, allora auguri di nuovo, Paolo, ciao. Cioè, così e continuare a casa. Tipo i passaggi falconiani. Poveraccio, si lamenta che è solo lì. Praticamente c'è la sorella che è severa. Però è isolato lì a Sorso. Poi a Sorso cosa fai lì? Guarda, dice che si diverte solo quando va al Tanit. Un giorno della settimana, non mi ricordo se mi ha detto sabato o venerdì, insomma. E insomma, comunque la voce è sempre quella, un po' più nasale gli è diventata, un po' più agemi. No, lì vanno la domenica, io so che la zia non è la sorella, pure non lo so. Ma se tu sei stato un bel po' con lui, vuol dire che ti ha fatto il gioco della calzetta. Ve lo volevo dire, ho detto, aspettate adesso chiudiamo, e che non volevo pigliare in giro dal telefono, adesso chiudiamo che in privato mi deve fare il gioco della calzetta. Stesso quanto non lo sentivo. Io personalmente non parlavo da secoli, da decenni, perché rispondeva a mamma quando lui chiama a casa, però io non mi molla più, capito? È un casino. Scusate che c'avevo il microfono a due, non me ne ero accorto. Porca paletta, ecco qua. Ah sì, bene va, sono a distanza 30 centimetri. Adesso è troppo forte, cavolo. A tu come l'ascolti? Mettilo a 4. Sì, premetto, questo è l'MV più 5. Allora, non vedo un cazzo qua. Scusate il termine, ma non vedo niente. Ecco. Continuo a non vedere niente. Allora, 4 distanza 30 cm dal mic. MB più 5 sul Superstar 3009. Ciao. Così lascialo così, va bene. Prima era troppo occupato. il tono, perché il tono è a 3, posso alzarlo se necessario. E prova a sollevare gente il tono poco poco. Allora, guarda, passaggio unico, tono a 3, tono a 3, tono a 3, tono a 4, tono a 4, tono a 4, tono a 5, tono a 5, tono a 5. Lascia la 3 che va bene. E io. E beh, non è entrato nessun altro oggi. Tutti in coma etilico ancora, da ieri notte. A quanto pare sì, non vuole entrare nessuno. Oh, io non ho bevuto niente, niente, nemmeno una goccia di alcol, niente. Yeah. Poveraccio però. Antonio Bobolo. Chi è? Indovina chi sono io. Bobolo, dai che ci dai del non stavate parlando adesso adesso. Cavolo. Allora te la spiego, via Sulcis. Ah sì, sì, sì, Andrea, sei cosa sei. Ma uia. Cambio, sì, barbiere, barbiere, zebra, ti ricordi che era zebra. Passa tutto il tempo, me lui è, hai visto come? Capo, io volevo passare spesso quelle zone, vedi un'antenna, comunque. Ciao zebra, Torino Kawasaki da questa parte. Capo, siamo sempre in ascolto, io sempre, in effetti già, quando ogni tanto lo accendo, giusto per farlo scaldare, adesso dico a Bobolo, gente che conosco. E boh, la gente sulla voce, la cosa dice, l'antenna di Versu, se l'ho compreso, se era mia. E vabbè. Beh, bene sto uscendo, perché sono degli anni che non sto prendendo, accendendo. E qua c'è abbastanza forte, guarda. Sei 9.25, Radio 5. E cappa, allora. Va bene, dai. Che non faccio voce. E vabbè. Io non sono a Sassari, io sono fuori Sassari. Ah, dove ti trovo? Sì, ma sono un po' in alto, io sono Zora San Camillo. Ah, da San Camillo, capito. Qui sono la parte più alta, montagnetta. Vedo tutto Sassari, quindi quella zona c'ero libera per il monte. Io mi amarro più pieno qua, radio forte abbastanza, radio 5 e 9 di radio. Ci vediamo Marco Lio, come ne arrivi, Marco? Allora, qua è 9 più 15, però siccome io tengo il volume al minimissimo per non disturbare qua in casa, è un po' bassina la modulazione, però lui ha detto che non ha voce, quindi sicuramente è una cosa momentanea. K. E adesso vi lascio, vado a pigliarmi un caffè per riprendermi dallo shock. Ok, vai Antonio. No, qua è più aperto questa la zona tua, giustamente. Vabbè dai, siamo lì per lì per lì per lì. 9.25 è che è un bel segnale, dai. È quasi fatto scala qui. Andare, zebra, riprendi. Io cosa riprendo? Tutto bene, tu. Tu stavi festeggiando ieri, eh? Sì. Stavo festeggiando sì ieri. Però a casa, non fuori. Sì, mi vincoli. No, negativo, manco io, sì. Ho passato a casa, faccio compagnia ai vecchi. Loro non possono andare da nessuna parte. Quindi, loro per fare compagnia, cosa fare? E vabbè, mi ha dato un imparo, non ho inteso il gioco ancora, va là va. No, io non ho fatto lì. E capace, lo so, la tirofi, zona quartiere americana. Adesso non sono ritrovato qua, prima ero da Sarivecchio. Cappa, ma esci bene, prima non usciti così, e si sta uscendo bene, cosa c'è l'antenna, c'è la mano qua? No, qua c'è una bumera per il momento, là c'avevo una pingola, là c'è pochissimo, la propria bomba. Con boomerang ho capito bene, quelle da un metro, un cubo da un metro in effetti, e dentro c'è il filo di carrotolante, io ce l'ho una di quelle. Oh, ce l'hai adesso nella ringhiera. Sì, da Robacone, la attacca da volo. Ehi, è l'unica che funziona bene, gli altri sono queste pagliacciate. Non si viene a notare. Ma già considera che stai prendendo dove quello là è lontano, non so chi era che stava parlando prima. Adesso sono venuto a fare più fuori da giro da entrare al baracchino così. Quindi non so manco il nome. Però voglio dire, tu lo senti più bene, quindi prende anche a recezione e anche in uscita va bene con l'antenna. No, questo è quando mi funzionano bene, cioè io ne ho provato tante, però nel balcone questa è la migliore. Tante sono tutti pagliacciate, c'è anche la unice, ma non è perché non si vengono tanto. No, io da qua addirittura Spagna, non lo so, mi hanno risposto anche da, non mi dire chi, che cazzo di nazione era, perché, però mi rispondono, vuol dire che mi sentono, capito? Io quando dico Italia, Italia, di continuo loro dicono Italia, Italia, allora capisco che mi hanno sentito, però non riesco a capire che cazzo di dall'Uguso, forse dalla Germania, più lontano pure. È molto, sono riuscito ad arrivare una volta in Ungheria, non so un po' comunque. C'era un po' di cose, propagazione, ho visto roba di Spagna e roba di altri posti, secondo me era, se non voglio sbagliare, ma la regione di in America lì, quella zona lì. E viene, fa vedere l'inglese, così. Noi ci abbiamo dopo così intorni, dai. Con la mappa con catene, guidare, ghiacciate, è sempre in chibi che siamo andati a battere. Allora, sempre in uva, sono salito a vederla, sempre più figlio. Allora, non c'è niente di niente, non è successo nulla. E poi già l'avevamo pensata bene, avevamo messo i tiranti per quanto le cose. Oh. Sì, quest'anno. Sono certo che hanno quest'anno, e qui siamo con il primo giorno che l'hai messa. Dopo già sì, anche così. Vabbè, io non l'ho usata molto, quindi diciamo che la sto avvicinando adesso. Si può dire. Vabbè. Lei va in però l'antenna va abbastanza bene, non hanno mai problemi. Forse la microzebra si riferiva a me, ma io per Antonio sono libero, capito? Io vedo Sassa, le altre docce. È una bella posizione, diciamo, dai. E per antenna in cui io ha voglia, ce n'è fine per i turci. Ho fatto basamento il cemento per terra e salato il tubo cementato, affogato il cemento e poi ho tirato su roba di 6 metri. E più c'è l'antenna, che è più di 6 metri, quindi. Già va bene, poi per Sassa va bene, a voglia. Sono coperto per Alghero, ma l'altro ho sentito quando ho spostato l'antenna. Però tutto loro c'è lo stesso, molto meglio. Dove c'avevo prima l'antenna non prendevo quasi niente, adesso almeno sento Alghero e cose. Comunque propagazione di X, io guardo il più lontano che ho fatto dall'altra parte del globo della Terra, praticamente Indonesia, Jakarta. Quindi più lontano di quello penso che non esiste la Nuova Zelanda e basta, non c'è altro. Quindi. E niente, poi tutto il mondo ce l'ho quasi. Quindi, io sono una vita e faccio di ex, adesso dall'anno scorso a quest'anno che non ne sto facendo, che non c'è più gana. La faccio per pensione e mi riposo. Avanti Zebra. Eppure io un bel di domenica, intendo, se faccio ascolto più che altro, no? E sento nazioni, strani, chissà da ogni cazzo lo fa vedendo chi. Provo a dirle le cose, capito? Provo a dirle Italia, Italia, mi rispondono, quindi vuol dire che arrivo io, ma a sapere che nazioni è, non si fanno capire, o perlomeno so che io donto, non so pure la lingua, bisogna sapere se magari sei in Cina, cazzo. Quello è. No, tu in Cina, dimmi una cosa, ma il codice internazionale lo conosci almeno quando fai di ex? No, cos'è il tuo codice internazionale? Allora, io per dire il mio nome è Tonino, Tango, Oscar, India, novembre, Oscar, Tonino, capito? Il senso si era Tango number one, ecco, quando tu fai così, praticamente ti fai capire all'altra parte a cui ci stai parlando e ti ha le coordinate, i numeri dici inglese o spagnolo, come cavolo vuoi dire in francese? Non devi scrivere questa roba, già lo so già cosa vuoi dire. Prima ce l'avevo quella fatica, Oscar, già ho capito cosa vuoi dire. Adesso ho due pezzi di fuganti, se sto dicendo che l'ho da parecchio che non entravo. Ho mollato tutto. Adesso mi dico perché se non lo accendi questo baracchino si rovina. Allora ogni tanto lo accendo e porto già un po' di ex così. Ma non è più come prima, capito? Vedi, una cosa del genere mi dovrei prendere, un libro dove ci sono tutte queste cose, che non manco per rinfresco le idee. È una fesseria, guarda, basta che tu lo scrivi, poi le tue coordinate te le impari così e si è la memoria. Io so tutta la memoria, c'è bisogno. Quindi, ma se vuoi io te lo posso anche fare un bel foglio con tutto l'alfabeto, diciamo, internazionale, così un domani ci conosciamo, ci prendiamo un caffè e te lo do, così almeno ti pare anche meglio così per il prossimo estate e ti fai di ex. Ok Zebra? Capo, meglio, va bene, non mi barivedo, sono per me, queste cose sono radiali, e va bene. Ok, Antonio, riprendi. No. Ok, aspetta un attimo se posso fare una cosa. Oh, yeah. Da quando ci si sembra frequenza? Da un sacco d'anni. Adesso sono passati un sacco d'anni. Da quando ho messo l'antenna, sono passati 30 anni, una cosa del genere. No, ci sono da molto, voglio dire, a confronto ad altra gente che c'è di più, cioè da dando vera lì su Marco, non si chiamava, su Marco Rosso, la cazzo vera. Guarda, io ci sono dal 74. Ma io no, da quella lì. Vedi, non ho conosciuto questo balcone, non l'ho conosciuto io. Io sono da prodotto, A me fa come è entrato agli anni 80, mi sembra. Capito? Quindi. E qualche vecchio CB già c'è ancora comunque. C'è anche Gian Maria Figaro c'è ancora. Purtroppo la buonanima di Mario Mano non c'è più. La buonanima di Torre della Verde non c'è più. La buonanima di Luisito non c'è più. Qualche altro si è disfatto del tutto, c'è un CBE, anzi prima era molto più popolato. Guarda, io avevo staccato tutto, ho fatto un bianco praticamente di 12-15 anni, non sono più entrato, mi sono rotto le palle. Dopo mi è venuto di nuovo lo sfizio, ho detto ma esci da, rimettiamo di nuovo tutto su, vediamo un po'. La frequenza si è indebolita parecchio però, da come l'ho conosciuta io, a quei tempi, a oggi, trovi qualche persona per miracolo. L'altro giorno era abbastanza un po' buon fornita, diciamo, 6-7 CB nel canale, ma non è più come prima c'erano molte persone, molti stranieri in ascolto, non vogliono entrare, non ho capito perché. 5-10 minuti, invece, vabbè, pazienza. Il capo, infatti il giorno non stato, ma cos'è la gente che fa l'ascolto? Beh, io lo so perché c'è un sacco di gente che non entra, ma non disoccupa cose, non danno la vagonia, o magari hanno perso la gana di parlare, adesso ormai sono più gruppi telefonino, i messaggi, tutte cose segrete, la base devo far sentire i messaggini, che farà cuba, capito? Non è più come prima che era un argomento, entrava un argomento e si proseguiva a 4 o 5 a fabbricare certe cose. Chissà che non torna. Ma a me ascoltare non piace, la verità. Io se ascolto perché vuol dire sto facendo qualche cosa e quindi non posso entrare. Ma come poi finisco subito entro col break e ci parlo. Capito? Molte volte sono impegnato e rare volte che sto in ascolto sino alla fine e non riesco a entrare perché ho dei lavori un po' impegnativi e allora mi viene male entrare. Però rimanere in ascolto così, accedere la schiena, ascoltare non mi va. Io entro o niente. A volte fisso se c'è qualcuno, ho sentito Antonio e ci hanno fatto un po' questo, l'ha preso perché non c'è nessuno. Dopo è entrato Marco, che è andato a prendersi il caffè, vediamo se questo caffè sarà già bevuto, perché a quest'ora Marco lì mi avrebbe bevuto 40 caffè. Ci sei Marco? Sì, decaffeinato perché devo stare molto attento con la caffeina, dovrei stare attento anche con gli zuccheri perché io faccio danno, Poi con le feste non ne parliamo, tra datteri, cioccolato, panettoni farciti, noci, fichi secchi, veramente la glicemia non voglio nemmeno sapere quant'è, perché io tuttora, cioè adesso non sono diabetico, però per il modo di vita che faccio io secondo me sono candidato, quindi devo stare attento. Sì, io stesso ho approfittato peggio di te, adesso che oggi sono diabetico, ho il mellito 2, che è un diabete che viene dopo i 60 anni. Meno male non c'ho il mellito 1, perché il mellito 1 è più pericoloso, praticamente se ti fai l'insulina muori. Io no, invece mi do metformina. A me me l'ha detto il diabetologo, la vuoi fare la dieta, a me ci verrà uno che mi viaggi la bagno. E altri mi ha pastiglia, va, mi ha pastiglia, mi ha tassare. E vabbè, comunque, mi di zebra. A Marco io lo conosco, diciamo, quando era ragazzino proprio. Eri piccolo, quanti eri piccolo Marco, quanti ne avevi? Io sono entrato nell'84, in estate, aspetta che abbassi il ricevitore, e avevo 13 anni, non avevo nemmeno l'età per modulare, ero abusivo per l'84, poi dall'85 ho fatto i 14 e mi ha inserito nella concessione mamma. Però di persona non ci siamo visti, forse tranne una volta che eri venuto a trovare, c'era Sandro Satellite e Pomponio mi pare sotto casa, ma non mi ricordo nemmeno, è stato proprio di sfuggita. No, in effetti non ti conosco di persona io, so che eri molto giovane a quei tempi, capito? Quindi, vabbè, altri tempi ero, a modulare spesso la tua grica non la modulava. Era dei bei questi, comunque, dai, tranquilli, dai, senza... Ha capito, zebra? E tu Marcolino già l'hai sentito, sì. Ma tu non ho cocco, ma l'hai preso. Cosa? Natalino. Cosa hai detto tu? Natalino, ho detto che è cocco, ma l'hai male. Natalino, fai un passaggio. Non si comprende nulla. Ma... è normale che sia 9.20 di segnale, dovresti essere 9 più 30. Controllate voi se è normale Natalino di segnale. A me pare la radio che non si capisce nulla. Ma per me è normalissimo. C'è fatto sì Natalino. Tutto di questo, però mi capisci? Forse c'è la televisione troppo alta, dai. Comunque, auguroni Natalia a te concetta. Sì, c'è la televisione che ho, sentivo due voci, sentivo. Non ci capivo un fifero, cavolo. Me lo posso immaginare. E mia moglie stava guardando la televisione, capito? Io gli rompo le scatole, non parlo molte volte per quello. Vabbè. Avanti zebra. Natalino è casinato. L'ho sentito che c'ha problemi. fuggirà dall'antenna Giulia. Va bene, sta lì. Ma siete lì, c'è da Giambia, ne ero manco. No, io già posso parlare, non c'è problema. L'antenna me l'ho cambiata, è nuovo a questo. Non tu, no. Quello mio, quel vicino. Ehi, vabbè, quando se la cambierà vuol dire che guarderà. Eh sì, io quello che ho sempre detto, tu devi modulare mattina, pomeriggio, sera e notte. Se il problema è suo, se lo risolve. Anzi, forse un incentivo a risolverlo prima. Comunque, stendi gli auguri anche a Concetta, Natalina. Ehi, auguri da Marcolino, Concetta. Grazie. E da Tonino. Grazie a tutti e due. Grazie, Concetta. Auguri anche alla nostra mostra. Natalì, prima ho fatto salutare al baracchino, indovina chi, non so se stai ascoltando. No, negativo, acceso adesso. Ero curicato. Natalì Falcone. No, dovevi dire Nasu. Falcone, Nasu, mica buone. Ogni naso. Io. L'ho sentito appesantito, eccetera, poi la solitudine lì. L'antenna mi ha detto che l'aveva messa mi tempo fa, ma gli avevano stracciata i sorsesi, qualche cibo di sorso, ma forse si parla anche di 15 anni fa, boh, non lo so. Chi vivi? Se disturbi te la fanno a pezzi l'antenna. Poi mi è uscito sorsesi, non Sussinchi. Sussinchi è offensivo, bisogna chiamarli diversamente Porto Torresi. Sussinchi no, Sussinchi di Coglio. Io sono in Porto Torresi. Ma è pure un murete, Sussinchi di Coglio. Ma non c'è più la mania di la volta qua, a Porto d'Oro. Quando hanno conosciuto che era Mario Altana, che era un bel forzi, poi c'è Fortunato Occulto, che è fatto in Romacco a Sassari, fino a che ha trovato una persona che la pucca la mistura in mocca, ed è chi mi si è cagliato. Comunque confermo, Tony, un giorno hai detto quella cosa, il produttore, che un giorno non ti conoscono, mi passi avanti, fanno finire la volta successiva, vabbè, coso, mi offri un caffè, mi offri un coso, sì, è vero, confermo, non so se sia così anche in altri paesi, però lì è particolarmente sentita la cosa. Sì, ma allora io, tantissimo tempo fa, mancavo un film santo, e il produttore, se la ditta a cui ero io, ce ne ho parecchi. E c'erano, allora le dico solo di uno perché è successo più di uno. Questo qua la mattina, allora io stavo giusto dalla casa a Sassari e quindi momentaneamente ho trovato